Allora, lascio la parola a Lina Malfona dell'Università degli Studi di Roma alla Sapienza, Dipartimento di Architettura e Progetto, e il suo titolo prevede il termine progetto per l'appunto attraverso il Tevere, progetto di riconnessione dei paesaggi archeologici e naturalistici tra Fiumicino e Castel Porziano. E al termine dell'intervento, ovviamente potranno essere poste domande e si farà dibattito come sul successivo. Grazie. Grazie. Allora, io ringrazio l'École Française che mi ha dato questa possibilità così importante per me di confrontarmi in queste giornate con diciamo, studiosi afferenti a diversi settori disciplinari, quindi anche molto diversi dal mio, per cui è stata un'occasione insomma, di grande valore. E io sono architetto, sono dottore di ricerca presso appunto l'Università di Roma Sapienza, e dove svolgo un assegno di ricerca, quindi un postdottorato. E negli ultimi anni mi sono occupata, diciamo, del territorio a sud-ovest di Roma, e, come membro di un gruppo di ricerca coordinato da Piero Stilio Rossi, un gruppo che chiaramente ha lavorato su questi temi per molti anni. Io infatti oggi vi racconterò un po', la mia parte, diciamo, di questo studio, che è una parte, diciamo, minima rispetto, insomma, al lavoro fatto, dal Dipartimento. Il territorio ed è relativo, insomma, a questo libro che ho pubblicato l'anno scorso, che si intitola appunto Tra Roma e il Mare. Il territorio di cui mi sono occupata è quello che appunto dall'Eur giunge al mare e che arriva quindi ad Ostia e Fiumicino, un territorio chiaramente attraversato dal fiume Tevere. E in particolare ho avuto modo di analizzare le figure e i caratteri di questo luogo e le sue infrastrutture, come anche le preesistenze archeologiche e quelle naturalistiche, per arrivare poi a definire una proposta progettuale che si incentra sulla proposizione appunto di un parco archeologico e naturalistico che dal comune di Fiumicino, quindi dall'area di Portus, arriva fino a Castel Porziano. Il campo di applicazione, diciamo, di questo studio è il territorio della coda della cometa di Roma, che qui vedete rappresentato, ed è un territorio, diciamo, e questa definizione della coda della cometa di Roma risale all'architetto Gustavo Giovannoni, che nel 1935 fece questa proposta di espansione della città di Roma verso il mare, attraverso dei nuclei satelliti, quindi in direzione Roma-Ostia, secondo appunto quel modello a forma di coda della cometa, che trova nell'Eur, quindi nel centro dell'Eur, il punto di raccordo, l'attacco alla coda, da cui si sviluppa poi questo sistema che arriva al mare. Questo territorio, come dire, è solcato da grandi telai verdi, intendo dire, mi riferisco, diciamo, alla campagna romana, che è attraversata da questi grandi viali di eucalipti ed è segnata poi dai canali della bonifica, e da grandi sistemi insediativi che poi sono anche separati da grandi infrastrutture viarie. Ed è un territorio segnato anche da presenze fragili, come appunto le preesistenze archeologiche e monumentali che si trovano sull'antica via Flavia Severiana, di cui mi sono occupata col progetto. Chiaramente alcuni dei caratteri di questo territorio sono stati tratteggiati da molti pittori, da molti scrittori. Qui ci sono alcuni quadri realizzati dai 25 della campagna romana, che erano questi pittori appunto che ritraevano alcune figure, alcuni segni di questa campagna. Molti scrittori se ne sono occupati, anche per esempio Goethe e Byron. E se ne è occupato anche Goffredo Filibeck, che ha scritto un libro molto importante su Portus insieme a Giuseppe Lugli, e lui in questo libro, diciamo, dà una visione molto, secondo me, profonda di questo territorio, perché mette in contrapposizione, diciamo, l'attuale decadenza di questo territorio. Era un territorio malarico, dove dominavano le paludi, e quindi mette in contrapposizione questa attualità con invece l'originario splendore delle rovine, e scrive questa frase molto, secondo me, insomma, bella sulla campagna, cioè da questa immagine quasi contrastante, quasi sublime, insomma, della campagna romana. L'area, come dicevo, è segnata da grandi segni territoriali che mi piace definire corpi ambientali, come per esempio la cintura verde che lambisce il fiume Tevere e la pineta di Castelfusano, così come Castel Porziano. È dominata quest'area anche da questo sistema pseudo-centuriale, potremmo dire, perché è la rete dei canali della bonifica, è popolata appunto da zolle abitative molto estese e da potenti fasci infrastrutturali come le grandi strade, come le ferrovie, per esempio, che hanno, diciamo, sono dei segni molto forti. Ed è poi popolata appunto da segni archeologici fondamentali, tra cui le saline di Ostia, l'area degli antichi stagni di Ostia e di Maccarese, complessi archeologici come Portus e Ostia Antica, appunto, la necropoli di Portus, l'antica città romana di Ficana. Quindi sono segni, diciamo, molto forti, però oggi abbiamo una difficoltà nel leggere questi segni, perché per esempio il porto di Claudio è in parte diciamo racchiuso dall'aeroporto, cioè è in parte illeggibile, quindi il porto di Traiano è in parte privatizzato, per cui insomma c'è una difficoltà di lettura che poi ci ha indotti a compilare, diciamo, questa carta archeologica, questa mappa archeologica che mette in evidenza invece più nello specifico questi segni. Questa carta è stata realizzata attraverso una analisi attraverso un confronto, diciamo, anche con la carta per la qualità del piano regolatore di Roma, con la carta dell'agroromano e col catasto alessandrino. Inoltre chiaramente ci sono risultati utilissimi i rilievi fatti dal gruppo di ricerca coordinato da Simon Key, che ci hanno permesso, diciamo, di avere una visione globale su Portus. Chiaramente eccoli, questo disegno insomma è quello più attuale, credo, che ci sia su Portus. Quindi dicevo, in questo territorio ci sono questi grandi segni portati dall'uomo, l'aeroporto, i porti, i nuovi porti, perché sono previsti un porto commerciale e un porto turistico a Isola Sacra, quindi insomma sono dei segni molto forti, però io credo che sia indispensabile partire anche da questi segni per la trasformazione del territorio, quindi facendo un progetto sicuramente di riscoperta degli antichi segni, però valorizzando e, diciamo, sfruttando, utilizzando anche questi nuovi segni. Quindi il tema della mobilità è un tema molto importante da cui partire per realizzare, insomma, uno sviluppo dell'area. Chiaramente le strade che portano adesso al mare sono la via Portuense, la via Ostiense e la via Cristoforo Colombo, che è un tridente, diciamo, che parte dal centro di Roma e arriva verso il mare, però si è dimostrato del tutto insufficiente, insomma, a portare appunto verso il mare i grandi flussi. E il progetto che propongo e che vi mostrerò, diciamo, questa è una grande immagine di Roma dall'alto. E il progetto che propongo prevede il potenziamento della via Portuense, che si trova secondo quest'asse, e diciamo il potenziamento realizzato in maniera diversa della via Severiana, che corre quasi perpendicolarmente rispetto alla via Portuense. Quindi il potenziamento di questi due sistemi credo che serva da una parte a connettere la città al mare, dall'altra parte a superare la visione del Tevere inteso come grande frattura, cioè il Tevere adesso è visto come frattura perché non ci sono modalità per attraversarlo. Invece creare un sistema lineare attorno a questa antica preesistenza della via Severiana potrebbe appunto permettere di attraversare il Tevere. Noi stiamo lavorando poi, tra l'altro, su questi progetti anche per un grande progetto che vede 12 università italiane e 12 università straniere appunto interessarsi a 25 quadranti della città di Roma per riprogettarli. Noi in particolare stiamo studiando appunto questo quadrante, quello che arriva dall'Euro al mare, per una grande mostra poi che ci sarà al Maxi a settembre. E quindi ecco la creazione di un parco. Questi sono i primi schizzi di progetto. La creazione di un parco permetterebbe di superare quella visione del fiume Tevere come barriera fisica, come dicevo. Sembra infatti molto strano vedere come ancora oggi quel conflitto, quel grande, come dire, sì, quel conflitto tra Ostia e Portus possa rivivere ancora adesso, perché in realtà non sono collegate da nessun sistema, cioè appaiono oggi come dei frammenti disseminati all'interno della campagna romana. Dicevo, il ponte di Dragona, per esempio, questi sono altri schizzi di questo sistema lineare che corre sul lungomare. Dicevo, il problema è che c'è stata una previsione del PRG per un ponte da realizzarsi nell'area di Dragona e quindi superare la cesura del Tevere, però Fondamentalmente questo, la costruzione di questo ponte sarebbe anch'essa ancora insufficiente, perché sarebbe importante connettere le due sponde del Tevere in più punti, sicuramente in corrispondenza della Fiera di Roma e soprattutto nella previsione dell'attuazione della 18ª centralità del PRG di Roma, che è la centralità di Acilia Madonnetta, che è prevista in quest'area, in questa zona. E un ponte sicuramente sarebbe necessario nei pressi dell'Isola Sacra e sicuramente un ponte sarebbe necessario alla foce del Tevere, nell'area di Fiumicino. E io insisto molto su questa centralità di Acilia Madonnetta, che secondo me potrebbe essere, cioè la sua realizzazione potrebbe portare a un grande sviluppo di quest'area, perché soltanto la costruzione di una grande polarità, poiché sia un parco, che sia un centro attrezzato, diciamo, potrebbe portare allo sviluppo dell'area e potrebbe far nascere il bisogno proprio di creare dei ponti e delle strade che uniscano le due sponde del Tevere. Detto questo, passo ai principali sistemi archeologici da cui è partito il progetto, appunto Portus e la Via Severiana. E Portus, diciamo, la costruzione di questa complessa macchina portuale risale al primo secolo d.C. e Portus rappresentava un po' la testa della via Portuense, così come Ostia rappresenta la testa della via Ostiense. Ma quello che interessa, diciamo, al progetto, a questo studio, è la natura, come dire, metamorfica di questo porto, cioè il fatto di essere porta, porto, di essere città portuale, di essere anche una centralità capace di bilanciare nel tempo la centralità di Ostia. Diversi architetti sono intervenuti su Portus, perché chiaramente questa figura del bacino esagonale, questa figura perfetta, no? Questa figura geometrica perfetta ha indotto molti architetti a ispirarsi a questo porto per realizzare i progetti del nuovo. E, questa proposta è quella realizzata da Carlemonino nel 98, in cui presenta appunto questo progetto, il Porto dei Porti, in cui prevede, tra gli interventi, insomma, diversi che prevede, c'era questo intervento sulla porta di accesso agli scavi di Portus e quindi di accesso agli scavi, diciamo, anche successivi sulla via Severiana. E in particolare nella porta di accesso agli scavi, Aimonino pensa di realizzare dei servizi, delle attrezzature per la cultura e per lo svago, gallerie, parcheggi, nodi di scambio, un ostello, un albergo e un asse attrezzato. Quindi questa nuova stazione si configura un po' come la porta di accesso agli scavi. Se quel progetto di Aimonino può risultare un po' tendenzioso, diciamo, come proposta, sicuramente questo qui invece di PPR, progetti e ricerche di architettura, è un progetto molto più analitico, è molto più teso a delineare un parco all'interno appunto di questo sistema di Portus. Questo è il bacino esagonale, una parte del bacino esagonale. E quindi dicevo, questo porto di Traiano, sicuramente anche per la sua forma architettonica, fu luogo di ispirazione di molti studiosi, da Pirro Ligorio a Duperac, da Danti a Gismondi, Lanciani, insomma, moltissimi architetti si sono confrontati con questo porto, però alcuni l'hanno fatto non cercando di ricostruire il così com'era, ma dandone un'interpretazione anche appunto molto tendenziosa, anche molto lontana dalla realtà. Credo che quindi questo esagono del bacino portuale è una figura appunto della geometria perfetta, che sembra ricalcare la forma planimetrica del centro storico della città di Roma, che quasi attraverso una traslazione di senso viene proiettata nel mare, prefigurando così un possibile destino della città. Queste sono alcune viste sugli scavi di Portus. La via Severiana. La via Severiana è stata, appunto, dovrebbe rappresentare la spina di questo progetto che adesso farò vedere. In questa carta archeologica del Lanciani, molto insomma poi discussa, e sicuramente non mostrava qui per esempio un'inclinazione del porto di Claudio, che poi si è scoperto non era così, insomma. Però mi interessava molto far vedere questa linearità appunto di questa antica strada. E a proposito della via Severiana, ci sarebbe da fare una premessa, perché è stato importante per noi cogliere questo carattere della strada all'interno del progetto. Cioè, accade spesso che un tracciato urbano, quindi un asse viario, venga riunisca in qualche misura in un disegno unitario dei frammenti del passato, restituendo loro un senso compiuto. Molti di questi frammenti conservano nel tempo la loro compattezza, memoria dell'unità perduta, mentre altri diventano parti di sistemi. Quindi il concetto stesso di traccia, di frammento, appunto, ha una natura duplice, perché da una parte appunto è un'unità che ormai si è distaccata dall'insieme, però dall'altra parte conserva dei caratteri dell'insieme, per cui diciamo questo carattere si trova proprio nella via severiana, come asse connettivo ma allo stesso tempo insieme eterogeneo di frammenti. Cioè, perché dico questo? Perché il tracciato della via severiana non fu un tracciato, diciamo, non fu l'esito di un progetto così come fu la via Portuense, invece, che era un asse rettilineo e destinato appunto ai traffici veloci. La via Severiana andò ad unificare, diciamo, progetti diversi, quindi pezzi diversi di strade, sistemi diciamo preesistenti, in cui si accedeva appunto alle antiche ville che erano sul mare. E quindi a partire, diciamo, dall'area monumentale di Ostia Antica si collocano sulla via Severiana siti archeologici di grande interesse. Li conosciamo: la villa della Polombara, la villa di Tor Paterno e la villa di Plinio in particolare, che è stata poi fonte di ispirazione anche quella per molti architetti. Per esempio Schinkel diciamo, cercò di ricostruire questa villa di Plinio in una immagine quasi, come dire, neoclassico romantica, lasciando che questa villa si specchiasse nell'acqua, appunto nel mare, ed effettuando una ricostruzione, certo in qualche misura fantasiosa, da architetto chiaramente. E più diciamo, successivamente Leon Krier, un architetto contemporaneo e postmoderno, descrive il Laurentinum, appunto questa villa di Plinio, come se fosse diciamo un presidio fortificato su un'altura, una sorta di compendio postmoderno di un'acropoli, un borgo medievale e una città rinascimentale. Come vedete, fa una descrizione assolutamente arbitraria della villa di Plinio, ponendola addirittura su un'altura. Ma veniamo al progetto. Lungo la via Severiana si propone un progetto continuo a grande scala, come ho già detto, un progetto inteso come un'azione di trasformazione territoriale, un progetto di una città-parco che incorpora i caratteri sia della riserva archeologica che dell'oasi naturalistica, del polo ecotecnologico e del waterfront. Queste sono le principali, diciamo, preesistenze presenti sull'area, e questa è una prima bozza dello schema progettuale. Portus in questo schema è inteso come la porta di questo parco. Ci sono diverse architetture al servizio dell'archeologia, tra cui piastre, percorsi e torri, per esempio, che ribattono la presenza delle antiche torri costiere del Lazio. Vasche d'acqua, foresterie e servizi posti sui bordi di questo parco. Chiaramente sono molti gli esempi di parchi archeologici intesi in questa maniera, aperti e quindi aperti anche al rapporto con la città. È importante anche, per esempio, il ruolo che l'arte contemporanea ha avuto all'interno di questi parchi archeologici. Qui vediamo il parco di Scolacium in Calabria con le opere di Daniel Buren. Qui vediamo sempre nello stesso parco le opere d'arte di Mauro Staccioli, che andavano ad inquadrare dei particolari ambiti di questi parchi, delle particolari, diciamo, preesistenze. Il ruolo di questo parco della via Severiana quindi è quello di guidare in qualche modo l'osservatore verso i siti archeologico-naturalistici, su cui si intende chiaramente effettuare delle operazioni di ricucitura, cioè di collegamento, e quindi il progetto in qualche modo si propone di cogliere l'incompletezza e la frammentarietà della rovina come un valore, cioè quindi non come proprio come un valore da preservare e come una potenzialità quindi da esaltare. Il primo tratto di questo parco archeologico si confronta con Portus e con Ostia Antica. Diciamo, si prevede di costruire il collegamento tra questi due poli attraverso dei ponti, anche in legno, quindi anche delle strutture un poco diciamo impattanti, e si prevede anche di permettere il collegamento attraverso il Tevere, tra questi due siti. Quindi un collegamento è quello attraverso il Tevere e l'altro è attraverso l'antica via Severiana, l'antica via Flavia, che appunto diventerà poi l'asse di questo sistema. Questo è il paesaggio planimetrico che vediamo adesso, cioè l'esistente, e questa invece è un'immagine del progetto. Un progetto che prevede appunto la costruzione e la realizzazione di un parco naturalistico nell'area dell'Anza di Capodue Rami, e prevede appunto la riposizione di un sistema lineare che segue l'andamento della via Severiana, quindi si propone un percorso lineare in qualche modo anche con navetta, quindi oltre ad essere pedonale, che permette attraverso anche la creazione di un sistema agricolo, un sistema che valorizza quindi il territorio, permette appunto questo passaggio, ma lo fa, diciamo, senza costruire limiti, senza costruire recinti, lo fa diciamo collegando questo parco appunto alla città, e permette anche di vedere, diciamo, il Trastevere Ostiense scoperto da poco, e prevede sull'area del Trastevere Ostiense di realizzare alcuni laboratori per lo scavo archeologico. E questo progetto diciamo è soltanto la prima parte di questo progetto, invece più grande, che ripercorre l'antica via Severiana. Qui vediamo un'immagine dal mare del territorio della costa, quindi Portus, Ostia Antica e la via Severiana, che è attualmente immersa all'interno della pineta di Castelfusano. La pineta è stata rappresentata in bianco anziché in verde. E su Portus, sul porto di Traiano e sul porto di Claudio, questo intervento prevede, diciamo, una gradazione, cioè nel senso sul porto di Traiano l'intervento sarà molto semplice, chiaramente ci saranno soltanto delle passerelle pedonali, eccole, per esempio degli affacci sulla Darsena, o appunto dei percorsi fatti anche in materiali, come dire, leggeri, quindi senza impattare eccessivamente, mentre sul porto di Claudio si prevede di portare alla luce l'antica forma, diciamo, di questo porto, l'antica configurazione, e quindi questo si potrebbe realizzare attraverso la creazione di zone umide appunto nella zona dell'antico bacino, in modo da portare alla luce questo segno. E poi c'è il sistema delle torri. Si pensa di portare alla luce la linea di costa, l'antica linea di costa del IV secolo, mettendola in evidenza attraverso delle piccole torrette segnaletiche, che possono essere appunto dei sistemi di illuminazione, o possono essere dei belvedere, o dei serbatoi idrici, per esempio per l'acqua. Questo sarebbe, diciamo, anche importante. E ecco, e questo è il secondo, diciamo, la seconda parte del parco, da Ostia Antica, che si trova qui, quella che vedete in rosso è la via Severiana, dove appunto si trovano queste grandi preesistenze importanti, però anche qui, cioè, il progetto del parco non è un progetto isolato, anche qui c'è sempre il rapporto, per esempio, con questo pezzo di città, con questa parte di città che è l'area degli antichi stagni, quindi è anch'essa un'area importante su cui si prevede di per esempio inserire delle foresterie o degli spazi a servizio del parco, che invece inizia da questa linea in poi. Quindi è tutto quest'ambito. E questo parco è talmente tanto diciamo vicino alla città, integrato alla città, che è attraversato anch'esso da assi pedonali, da assi diciamo che possono collegare la città alla via Severiana. Questi assi addirittura non si fermano nel parco, ma si pensa di prolungarne alcuni fino a farli diventare, diciamo, dei pontili che arrivano sull'acqua, e che quindi danno per la prima volta il collegamento tra il litorale appunto di Roma con l'interno, cioè quindi col territorio della città, dove appunto si concentrano le residenze. Questa è un'altra vista del parco appunto della via Severiana. Qui vedete l'antica strada su cui si collocano questi riaperti, che sono, diciamo, valorizzati attraverso la creazione di radure, cioè di grandi spazi aperti all'interno della pineta. Come vedete, quegli assi proseguono all'interno del fiume e poi diventano appunto pontili. E, diciamo, nella valorizzazione di questo asse della via Severiana non bisogna chiaramente trascurare le relazioni del parco col sistema naturalistico litoraneo. E a proposito di questo, uno dei progetti che maggiormente ci ha, mi ha interessato, insomma, mi ha influenzato, è quello di Adalberto Libera per il lungomare di Castelfusano, che è un progetto straordinario in cui appunto l'architetto getta nel mare una piattaforma, proiettando tanto a largo la visione da permetterci di vedere la città dal mare, e ciò che si inquadra da lontano appunto non è altro che l'immensa pineta selvaggia esaltata come in una cornice da queste alte torri. E infine, diciamo, volevo concludere con questo progetto che diciamo parte dal progetto maturato in ambito universitario con col gruppo di ricerca, però poi diciamo trae a degli esiti, insomma, che ho sviluppato a proposito in un concorso internazionale di progettazione in cui ho proposto, diciamo, di realizzare una continuazione di questo sistema nell'acqua attraverso la proposizione di alcune isole che in qualche modo, diciamo, vanno a segnare questa figura esagonale del porto, come se il porto fosse stato ribaltato appunto nell'acqua. Queste erano le tavole di progetto presentate al concorso. Il concorso prevedeva di realizzare un grande un luogo che esprimesse l'unità dell'Europa, e appunto la proposta era quella di pensare questo luogo appunto nell'acqua e realizzare queste grandi isole appunto nell'acqua. E, diciamo, per concludere, in una prospettiva di sviluppo, io credo che non si possa prescindere dalla considerazione di due fattori importanti e che caratterizzano l'identità romana: il patrimonio storico-archeologico e quello ambientale, che è un sistema congiunto, se vogliamo, su cui puntare, che però necessita, diciamo, di una proiezione nel futuro, una proiezione nel segno proprio dell'innovazione. Un'innovazione che però non dovrebbe fondarsi soltanto sulla spettacolarità della trasformazione, ma proprio sulla valorizzazione e su un progetto, diciamo, di riscoperta dei segni perduti dell'area, che sono tratti salienti della memoria del luogo. Questa consapevolezza delle potenzialità del territorio è mancata, credo, ad una classe dirigente che ha lasciato che la rappresentatività di Roma rimanesse arroccata all'interno delle sue mura, perché non c'è stato nessun pensiero sulle periferie, purtroppo. E quindi concludo col dire che non può esserci futuro senza una strategia che sia lungimirante, e quanto più un progetto è dotato di utopia, tanto più esso potrà determinare, diciamo, concretamente delle trasformazioni. Grazie. Allora, ringrazio Lina Malfona per il suo interessantissimo intervento. Le vorrei porre una domanda per primo, permettetemi. Ho appuntato una sua frase che mi è piaciuta moltissimo: l'incompletezza e frammentarietà delle rovine come un valore. Lì dove il vostro progetto si muove in un territorio che è oggi ultraframmentato fra infrastrutture, legacy aeroporto piuttosto che porti, piuttosto che Fiera di Roma e via dicendo, nuove centralità che poi in realtà al momento sono periferie, pendolarismo e via dicendo, cioè un territorio molto molto difficile, che ha anche lo svantaggio di riguardare due comuni, comune di Fiumicino, sì, comune, e comune di Roma. Quindi io vedo sotto l'ambizione, sotto al progetto, quasi di creare una ricuscitura anche sociologica, cioè dare un'identità forte a un territorio così frammentato anche soltanto a livello amministrativo. E questo tipo di indagine sociologica, amministrativa, ecco, riallacciandomi proprio alle ultime tue frasi di tipo proprio inquadramento della possibilità della classe dirigente di portare avanti questi progetti, fa parte del futuro della vostra ricerca? Siete già entrati nel dialogo con le istituzioni locali, ed eventualmente che problemi prevedi di poter trovare il giorno in cui il progetto potesse da utopia diventare realtà? Noi in realtà ci siamo confrontati sempre durante il progetto. Poi questo è in realtà un mio progetto. Col dipartimento abbiamo maturato esperienze diverse, però noi ci siamo sempre rapportati con l'amministrazione. Cioè, abbiamo sempre cercato di costruire un dialogo e in parte c'è stato, però mi rendo conto che è una proposta del genere, è una proposta sicuramente utopistica, però che si può realizzare attraverso delle fasi, perché abbiamo, come dire, frammentato questo progetto in tre fasi. Che secondo me ha la grandissima forza il progetto di costruire un'identità, che è Sì, quello che in quello questi è territori indubbio. manca, cioè la parte preliminare, tant'è vero che, ecco, per quel che mi riguarda, per il futuro vorrei aiutarvi ulteriormente a promuoverlo, perché è uno dei temi che per esempio anche noi trattiamo, il creare, Consorzio Tiberino, ho detto prima, Tevere, cioè creare delle identità rispetto a due luoghi naturalistici, geografici e archeologici, rispetto a una città che si è evoluta senza identità, senza struttura e piuttosto Sì, perché casualmente, poi diciamo. questa zona ha delle potenzialità che grandissime, per cui insomma viene facile attuare un discorso. Allora, se c'è qualche domanda, vedo la direttrice pronta a raggiungervi, quindi. Buongiorno, io volevo fare una considerazione, diciamo abbastanza terra terra, considerato che lavoro all'ufficio pianificazione del Comune di Fiumicino. E cioè, rispetto all'utopia di questo progetto, vedo la necessità di sciogliere diversi nodi, nel senso che è un territorio, diciamo frammentato, ma che vede poi la presenza di molti vincoli diversi, vincoli idraulici, vincoli legati alla presenza dell'aeroporto, ambientali, paesaggistici, che spesso comportano, diciamo, delle limitazioni che sono in contrasto l'una con l'altra. Faccio un esempio, sulla prospettiva di realizzare degli stagni, delle zone umide, in prossimità dell'aeroporto, sicuramente scatta l'impossibilità legata al fatto che l'aeroporto non vuole zone che attirino la presenza di uccelli. E quindi, diciamo, la presenza di diversi vincoli comporta magari l'impossibilità o l'incoerenza di quello che si potrà realizzare concretamente, perché magari l'uno dirà che una cosa si può fare e l'altro ente, diciamo, sovraordinato dirà che non si può fare. E poi la seconda cosa è la considerazione del fatto che in qualche modo si va a pianificare in casa d'altri, perché poi bisogna considerare che spesso un progetto del genere coinvolge anche i privati, che magari sono i proprietari dei terreni che potranno essere interessati da un intervento del genere, e che quindi in qualche modo devono essere interpellati, coinvolti e resi consapevoli di questo intervento anche in una scala più ampia, che non sia soltanto la semplice considerazione di essere espropriati dei propri interessi. Quindi credo che, anche se è uno studio che è utopico e che è, diciamo, di ampio respiro, abbia la necessità poi di considerare la fattibilità di quello che può essere effettivamente realizzato. Sì, io penso che i privati ne trarrebbero sicuramente vantaggio però da queste operazioni. Per esempio, noi abbiamo lavorato a questo progetto nello specifico su Isola Sacra e abbiamo individuato chiaramente il regime proprietario, cioè quindi alcuni disegni sono dei disegni a grande scala che poi però chiaramente dovranno essere risolti a scala più limitata, però nella prima parte del parco che ho proposto c'è stato proprio un'attenzione a capire quali sono i regimi proprietari, per cui secondo me i privati sarebbero sicuramente incentivati alla realizzazione di un progetto del genere, perché insomma potrebbero continuare a gestire per esempio delle parti di questo progetto. Quindi insomma tutto sta a cercare appunto un dialogo, cercare insomma dei terreni comuni. Poi capisco che c'è qui il problema tra i due comuni, perché c'è il comune di Fiumicino da una parte e il comune di Roma, quindi è ancora più difficile e poi ci sono le sovrintendenze, insomma. Quindi è un progetto difficile, però secondo me guardare in alto e prefigurare delle strategie proprio ad ampia scala è importante, perché soltanto se si prefigura, se si prefigurano scenari utopici, poi alla fine qualcosa si realizza. Quindi Quindi, insomma, la mia posizione è quella. Incontrare la popolazione locale nell'ambito di questo studio? Sì, c'è stata una presentazione del progetto, non di questo progetto, insomma di progetti più diciamo limitati su aree più piccole a Ostia, che però insomma cioè da una parte c'è un'ostilità alla realizzazione di queste cose, invece dall'altro poi c'è una certa attenzione verso queste problematiche, però insomma lavoriamo sempre su dei terreni un po' difficili. Certo, c'è stato sempre il confronto, diciamo, con la popolazione. La sfida è proprio passare dal quotidiano, che è sempre molto problematico in determinati territori, e poi ad una prospettiva futura che a volte, ecco, può apparire eccessivamente utopica, quando poi spesso si dice che manca la progettazione, e quando c'è la progettazione poi è anche diventa difficile farla conoscere adeguatamente. Innanzitutto ti volevo ringraziare per la presentazione, che ci fa percepire delle possibilità diverse per quest'area, e condivido in parte la tua idea di utopia rispetto a un progetto che miri alla valorizzazione di queste aree, non fosse altro che, già per cominciare, la sensibilizzazione della popolazione locale a tali tipi di problematiche. E in queste aree, come in quella napoletana, sappiamo quanto è difficile sensibilizzare le persone. E poi una curiosità rispetto alle passerelle che penetrano in mare: è previsto una possibilità di accesso al parco dal mare? Sì, cioè è stato... Cioè l'idea è proprio quella di ampliare questo parco al rapporto con la città, quindi è stata pensata una penetrazione dal mare. Per esempio quei grandi pontili che vi ho fatto vedere poi sono stati, diciamo, approfonditi, studiati, ed è stato per esempio, abbiamo pensato per esempio di realizzare all'interno di quei pontili proprio degli stabilimenti, cioè di spostare gli stabilimenti che adesso stanno sulla costa, di spostarli all'interno di quei pontili in modo da liberare la costa, la spiaggia, e quindi da renderla più permeabile. Quindi questo progetto è stato sempre pensato sui due punti di vista, cioè il punto di vista dal mare e il punto di vista della città. Quindi il parco è in qualche modo una cerniera, è racchiuso tra la città e il mare, e si diciamo avvale proprio di questo doppio fronte, insomma. Volevo sapere, in questo progetto molto ambizioso, se avete preso in conto i problemi di finanziamenti anche pubblici, perché come è già stato detto ci sono due comuni, poi siamo ai confini di Roma città metropolitana, poi c'è tutta la programmazione dei fondi europei dove si parla anche del litorale, insomma è stato preso in conto una progettazione anche di cofinanziamenti o... Sì, io diciamo forse non sono la persona migliore, diciamo, per parlare di questi problemi, però noi abbiamo lavorato, diciamo, all'interno di questo gruppo c'era una ricercatrice di Estimo, Maria Rosaria Guarini, che insomma ha studiato tutto il piano di intervento di questo parco, quindi credo anche i cofinanziamenti. E credo anche, diciamo, la possibilità di suddividere questo intervento, che chiaramente è molto ambizioso, di suddividerlo in tratti, e quindi pensare anche ad un'ipotesi di finanziamento proprio per parti di questo progetto. Non so dire altro, perché poi non mi occupo di questo. C'è uno degli autori che hanno esposto ieri, che hanno presentato ieri. Prego. Sì, volevo parlare... Solo ho visto l'immagine del porto di Claudio con l'acqua dentro, e per un punto di vista di geoarcheologo specialista in sedimentologia, prendere in conto che i sedimenti sono una banca di dati che adesso possiamo studiare in una maniera, ma se siamo a rimuovere questi sedimenti, possiamo pensare che dentro i prossimi anni, 100 anni, prossimi 100 anni, avremo tecniche nuove per analizzare questi sedimenti, ma se non sono più qui c'è una banca di dati che a sparire. Che verrebbe persa. Sì, capisco questo punto di vista. E sull'area del porto di Claudio, per esempio, avevamo fatto un workshop tempo fa, l'anno scorso, era stato fatto un workshop all'interno del nostro dipartimento sulla riprogettazione, diciamo, di questi ambiti naturalistici, archeologici, e alcune delle proposte che erano emerse, a parte quella di creare appunto questa zona umida, era quella di, non so se è possibile poi da realizzare, era quella di effettuare delle piantumazioni su quest'area, magari di un colore molto acceso, in modo che poi col vento, diciamo, potesse dare l'effetto del mare, quindi senza riempirlo d'acqua. Se non ci sono più osservazioni o quesiti, ringrazio nuovamente e passerei al successivo lavoro.